Tutti i giorni noi vediamo ragazzini con queste, con l'iPod, con l'uso delle cuffiette. Ecco, su questo ci sono delle leggende metropolitane in realtà, perché sordità. Ne abbiamo sentite tante, come si dice, a proposito di udito. Su questo senz'altro, perché io nella mia esperienza non ho mai visto sordità da rumore provocate da cuffiette. Perché? Perché il rumore produce una sordità nel momento in cui è continuo per 8 ore al giorno, deve essere superiore a 85 decibel, cioè deve avere delle caratteristiche che in realtà la musica non ha. Perché i ragazzini sentono la musica a volume certe volte eccessivo, che ripeto però non dovrebbe dare dei grandi danni? Io i danni che ho visto li ho visti da discoteca, li ho visti da concerti, cioè ragazzini che si mettevano vicino, si sono messi vicino alle casse acustiche del cantante, questi hanno avuto dei veri e propri traumi acustici. Le cuffiette non lo provocano. In ogni caso, noi ci accorgiamo che il volume è eccessivo se anche chi è vicino al ragazzino sente la musica. E il ragazzino alza il volume del proprio iPod perché? Perché deve sovrastare il rumore ambientale. Ecco quindi che è senz'altro più efficace e anche più piacevole usare le cuffie, quelle che oggi vanno di moda, che coprono interamente l'orecchio, perché in questo modo ci si isola dal rumore esterno e quindi più facilmente sentiamo bene la musica. Quindi, questo secondo me è un consiglio da seguire. Le cuffie è meglio delle cuffiette, ma una cosa è certa, dottor Burdo, con le cuffie i ragazzi non sentono, almeno hanno una scusa per non rispondere. Assolutamente, questo... perché si viene isolati. Ecco, questa è un'altra faccenda. Ma sì. Cuffie a parte, ci sono situazioni in cui avvertiamo che le nostre orecchie fanno fatica. Un classico è la conversazione in un luogo un po' affollato. Capire e soprattutto rispondere a tono correttamente può diventare difficile. Assolutamente. Dobbiamo distinguere tra udire e ascoltare. Difatti il detto non c'è peggior sordo di colui che non vuol sentire ne sottolinea la differenza, perché la comprensione, quindi l'ascolto, è data anche dall'attenzione, dall'interesse, dalla motivazione, una serie di cose. In ogni caso, se viene a mancare l'udito, ovviamente abbiamo una riduzione di comprensione, non stiamo attenti e non capiamo. Qual è il punto? Sì, dottor Burdo, ma sì. Ci sono dei segnali che ci fanno capire che il nostro udito sta calando, perché noi sappiamo, l'abbiamo detto tante volte anche con tanti esperti e forse anche con lei, che il nostro orecchio, e noi soprattutto, ci adattiamo ad un progressivo calo dell'udito. Purtroppo quindi cosa sì. Facciamo? Alziamo la TV, magari non sentiamo bene al telefono e ci accorgiamo perché teniamo il volume della nostra voce, il tono della nostra voce un pochino più alto, insomma in qualche modo ci arrangiamo. Ma ci sono dei segnali, dei campanelli d'allarme aiutarci a capire? I tre segnali sono, l'ha detto lei, l'ascolto della voce riprodotta, quindi soprattutto della televisione, una difficoltà nella comprensione della televisione, la difficoltà quindi anche del telefono, la difficoltà nell'ascolto multiplo, al ristorante facciamo più fatica degli altri a capire, e l'insorgenza di acufeni, i famosi acufeni che in realtà sui quali anche ci sono delle leggende metropolitane abbastanza importanti di cui varrebbe la pena discuterne. Naturalmente di questi suoni, fischi che disturbano il nostro silenzio, parleremo naturalmente nel corso della trasmissione, mi sembra un po' troppo. 800 24 00 24, se volete intervenire, come sempre siamo su Facebook e su Twitter, 349 238 6666, invece per inviarci i messaggi. Ho parlato troppo veloce, dottor Burdo, perché anche il numero delle parole aiuta. Il numero delle parole è misconosciuto come problema, ma in realtà è molto importante soprattutto a scuola. Abbiamo fatto difatti dei lavori, delle indagini sulle capacità di apprendimento dei ragazzini che hanno insegnanti che parlano molto velocemente. Una velocità di eloquio per l'italiano, perché per l'inglese e altre lingue è diverso, normale per essere ben compresi è sulle 70-80 massimo parole al minuto. Possiamo anche riuscire a riconoscere più di 100 parole al minuto, però una velocità normale tra le 70 e 80. Questo vale per gli adulti, per i bambini ad esempio di 4-5 anni sono 40-50 parole al minuto. Questo è il motivo per cui i nonni hanno successo più di altri con i bambini piccoli, perché parlano molto lentamente. Questo vale anche per l'anziano. Con l'anziano dobbiamo parlare a una velocità dell'occhio, diciamo non rallentantissima, ma più lenta rispetto al normale, perché le capacità di elaborazione dell'apparato uditivo sono diverse. Chi è? Orecchio. Adesso c'è un po' di cerume dentro l'orecchio, non c'è sede. Bene, vediamo un po'. Ammazzo, lo chiami cerume, questo è fango. Tu sei sordo. Ma dottor, ma orecchio mica è questo. È quest'altro. Dici? Vediamo. Dai, è peggio. Lavaggio. Lavaggio. Col sapone. Dottor Burdo, il medico della muta, noi ascoltiamo spesso. Bellissimo. Laura Vanossi ci propone delle brevi clip, ma è veramente straordinario. E ci dà modo di parlare dell'orecchio, l'orecchio tappato dal cerume. Si sono tappate, come fanno a funzionare? E questo è vero, ma come capire che si tratta di un tappo di cerume? Il tappo di cerume, intanto il cerume che cos'è? È una sostanza, è l'equivalente del sudore. L'orecchio, il sudore dell'orecchio è il cerume, serve ovviamente, se esiste vuol dire che serve, diventa un danno quando si accumula, e si accumula perché molto spesso noi non lo facciamo uscire, usando soprattutto i bastoncini. Con i bastoncini, spesso con i cotton fioc, noi infiliamo, facciamo rientrare il cerume che invece vorrebbe uscire. Questo è il motivo per cui le orecchie vanno lavate, vanno pulite, detergendo solamente l'orifizio esterno del condotto uditivo esterno, perché quello che troviamo noi oggi all'orifizio esterno, l'altro ieri era invece nel fondo. E man mano dei pelettini, delle cigliettine l'hanno spinto verso l'esterno. Però c'è chi, come chi suda di più, chi suda di meno, c'è chi produce più cerume di altri, e quindi si possono formare dei tappi. Il cerume dà una sensazione, il tappo di cerume, di orecchio chiuso. E attenzione, diventa particolarmente evidente quando si bagna, perché si gonfia come i fagioli e quindi dà quella sensazione di chiusura eccessiva e si diventa improvvisamente sordi. Frequenti sono i tappi di cerume che diventano evidenti dopo un bagno al mare o dopo una doccia, proprio perché l'orecchio si riempie d'acqua e il tappo di cerume si gonfia. Ci sono dei segnali che ci possono far capire che c'è un tappo di cerume? Ad esempio, quando noi andiamo in aereo, saliamo, avvertiamo una sensazione di ovattamento, di dolore, quello significa che il nostro orecchio va pulito tappo, oppure è un'altra altro? Cosa, questa è un'altra cosa. Allora, quella sensazione di chiuso è invece legato alla tuba di Eustachio che si chiude. La tuba di Eustachio è il canale che mette in comunicazione l'orecchio con il naso e la cui apertura mette il timpano in equilibrio pressorio. Cioè, che cosa vuol dire? La nostra membrana timpanica, che è la membrana che si pone alla fine del condotto uditivo esterno, sta nella sua posizione verticale perché c'è una pressione esterna che proviene dal condotto uditivo esterno, che viene equilibrata dalla tuba, che invece apre il naso verso l'orecchio e che si apre tutte le volte che noi deglutiamo. Ecco perché, ad esempio, in aereo, quando dobbiamo scendere o decollare, è meglio masticare una gomma americana piuttosto che una caramella, perché aiutiamo la tuba ad aprirsi continuamente e in questo modo si riequilibra la pressione all'interno dell'orecchio. Dottor Burdo, rispondiamo a Claudia che ci scrive al 349-238-6666. Cosa mi sapete dire di quei coni di cera per pulire l'orecchio? I pareri sono discordanti. Ne aggiungiamone un altro, il dottor Burdo? È assolutamente negativo. Cioè, l'orecchio è un organo delicato, va gestito da uno specialista perché si possono creare dei danni. Lei pensi al dolore, ad esempio, incredibile che si può provocare con la formazione di un foruncolo all'interno dell'orecchio per una manovra mal fatta, perché la pelle è molto tesa e quindi molto sensibile. Andare a infilare qualcosa senza aver visione di quello che si fa, perché questo avviene, sì, può provocare dei danni, può spingere addirittura il cerume verso il timpano e provocare addirittura una perforazione timpanica. Allora, Claudia, il dottor Burdo dice no. Ma andiamo a sentire cosa ci chiede Carla da Padova, o se ha un suono che le fa venire la pelle d'oca, o un rumore che in modo particolare la infastidisce, le crea fastidio, difficoltà a concentrarsi. Carla, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Io non ho fastidi particolari, però volevo segnalare una mia piccola esperienza relativamente al discorso dell'attenzione che faceva il professore prima. Ovvero, io ho passato un periodo incredibile delle superiori, è durato qualche mese, in cui io vedevo con terrore i professori che parlavano, vedevo la loro bocca che si muoveva, non percepivo niente. Paura di essere diventata sorda, ma a tratti mi sembrava strano. tutte le analisi fatte del caso, eccetera, per sentirmi sentenziare che ero solo incredibilmente distratta. Io dicevo, mi sembra impossibile perché sono lì tesa a sentire cosa mi dice la persona e non percepisco niente. La cosa si è risolta naturalmente. Può essere? Dottor Burdo, la mente altrove. Il professore parlava, ma Carla aveva l'impressione di stare attenta eppure non sentiva le parole. Assolutamente, hai la testa fra le nuvole, si dice. Magari era innamorata, Carla. È molto anche probabile. Carla, era innamorata in quel periodo? A quell'età sempre. Ah sì, vero? Sempre. Bellissima risposta, Carla. Grazie per essere intervenuta. Marco, buongiorno, ci chiama da Salerno. Salve, buongiorno a voi. Buongiorno a lei. Io volevo chiedere un chiarimento, perché da qualche tempo avverto due sintomi, e cioè la notte quando mi metto a letto in assenza di rumori, di suoni, quindi in totale silenzio, percepisco all'interno delle orecchie un sibilo continuo, e durante la giornata questo non avviene, ovviamente perché ci sono rumori intorno a me, ma sento come se all'interno dell'orecchio scoppiassero delle bollicine d'aria, non sempre, non continuamente durante il giorno, ma spesso sento queste bollicine d'aria, come se delle bollicine d'aria scoppiassero all'interno dell'orecchio, mentre la notte sento questo sibilo quando è tutto silenzio. Ecco. E la bobina continua a girare, sì, ma la base va avanti anche da sola, e noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma senza base non si può cantare, e con la base non si può suonare, non si può sbagliare, perché ci vuole orecchio. Dottor Burdo, ci vuole orecchio sicuramente, ma come abbiamo sentito dal nostro amico Marco da Salerno, l'orecchio può dare dei problemi, e Marco ne avverte di due tipi, uno con bollicine al mattino e l'altro invece la notte, quindi un problema diurno e uno notturno. Questi sono i famosi acufeni, cioè dei rumori non desiderati che noi sentiamo anche se non esistono in natura. Ripeto, su questo ci sono state parecchie leggende metropolitane. Iniziamo a svelarne una. Sì, no, prima di tutto che non sono curabili, non è vero. Nel senso, la maggior parte degli acufeni sono gestibili, anche se non curabili, perlomeno sono gestibili. E poi, essendo una sensazione, è chiaro che il sintomo che provocano dipende dalla emotività, c'è chi lo sente di più, c'è chi lo sente di meno, a parità di acufene. In realtà la maggior parte degli acufeni sono una conseguenza della sordità, e questo è un concetto importantissimo, perché molte persone lamentano l'acufene senza dichiarare di essere sordi. E questo è molto frequente, questa è la causa principale degli acufeni. Un orecchio scassato per definizione fischia. Un po' come succede con un microfono. Come succede con un microfono, se noi danneggiamo un microfono questo gracchia, così un orecchio che non funziona gracchia, cioè produce dei rumori. Quindi la terapia, e questo è il concetto fondamentale, non deve essere indirizzata all'acufene di per sé, ma deve essere indirizzata alla sordità. È come se una persona avesse un braccio rotto e volesse curare il dolore e non riparare la frattura. Lo stesso vale per i sordi. Dottor Burdo, ricordiamo che l'acufene può presentarsi sotto forma di fischio, di ruscello. Le modalità di presentazione sono molteplici, ce ne sono alcuni tipici, allora ci sono questi prodotti dalla sordità che sono la maggior parte degli acufeni, poi in realtà ci sono anche degli acufeni che non sono legati a una sordità, il più frequente è il fischio prodotto da un aumento della pressione arteriosa, e questo è un campanello d'allarme abbastanza importante che va subito segnalato al medico, perché vicino all'orecchio scorre la carotide e aumentando la pressione aumenta il rumore prodotto dalla carotide, quindi si sente un sibilo acuto. Gli ipertesi sanno che quando aumenta la pressione aumenta anche l'acufene, quindi devono instaurare la terapia che il medico ha consigliato loro. Questo è un segno importante. Il secondo, come si può dire, per frequenza, acufene non legato alla sordità è l'acufene prodotto dall'articolazione temporomandibolare, ovvero ci sono delle persone che chiudono male la bocca, che alterano la dinamica dell'articolazione temporomandibolare, quindi della mandibola, e questo provoca degli acufeni, si chiama sindrome di Kosten. Anche questo va trattato ovviamente con terapia adeguata da un dentista, da un odontoiatra. Quindi le buone notizie è che gli acufeni si possono curare, o perlomeno si possono trovare delle strategie per renderli meno fastidiosi. Certo è che, che se una persona non vuole dichiarare la propria sordità, dichiarerà sempre che ha gli acufeni. Dottor Burdo, però ci sono anche degli esami, gli esami audiometrici, che misurano la salute del nostro udito, perché ci sono acufeni che non sono sempre sintomi di un udito che è calato, ma ci sono acufeni di un'altra natura, diciamo così, come quello che lei ricordava, spesso frequente negli ipertesi, oppure per le persone che hanno problemi alla occlusione. Sì. Vero? Certamente. In questi casi qualche cosa si può fare, ma ne parliamo naturalmente nel corso della trasmissione. 800 24 00 24 se volete intervenire per raccontarci. Se ci sono suoni che vi fanno particolarmente stare bene, anche questi sono importanti. Le abbiamo aperto proprio la trasmissione con i vermetti delle orecchie, le musiche che si fissano nella nostra mente e questi ritornelli che non escono più. Ci sono invece degli suoni che non si fissano, ma ci danno particolarmente fastidio. Me ne state raccontando diversi al 349-238-6666. Noi vi aspettiamo dopo i mercati e il meteo. Essere e benessere. Siamo ritornati insieme, in linea con noi abbiamo il dottor Sandro Burdo. Dottore, molti sono gli sms che arrivano relativi ai suoni che ci danno particolarmente fastidio, quelli che ci fanno venire la pelle d'oca. Devo dire che in testa rimane il gessetto sulla lavagna, ma anche molto la forchetta strofinata sul piatto. Sì. Come mai questi suoni ci fanno venire la pelle d'oca? È perché noi abbiamo un sistema di autocontrollo della sensazione, un sistema non solo psicologico, è anche proprio organico. Ci sono dei muscoletti all'interno dell'orecchio che si contraggono in presenza di determinati suoni. Però perché questo avvenga c'è una certa latenza e alcuni suoni non riescono ad attivare questi meccanismi di come si può dire, di controllo e di diminuzione della sensazione, e quindi abbiamo una sensazione sgradevole di suono fastidioso. Ieri parlavamo di piedi, dottor Burdo, perché volevamo invitare, abbiamo invitato gli ascoltatori ad aumentare il numero di passi. Intanto molti di voi mi hanno scritto sulla pagina di Facebook, facciamoli insieme, anch'io sto misurando i miei passi, bisogna arrivare almeno a 5.000 passi al giorno, ma c'è una relazione molto stretta tra i piedi, tra lo stare in piedi e quindi il camminare, e il nostro orecchio. Adesso mandano tipi dall'area mansueta, dai mingerleni, in modo che tutto sembri innocuo, senza intenzione, innocente. Ma io non ci casco, lo sapete questo? No, non ci casco. È come in discesa, precipita tutto in avanti. Mi è già successo l'altra volta, si è come tutto inclinato. Non mi pare. Vuole intendere che tutto è dissestato sotto sopra? Ah, questo sì. No, non in senso metaforico, proprio fisicamente. Ma non ha anche lei la sensazione di cadere? Francamente no. Ma forse è meglio che sia, eh? Eh sì, perché ci vuole orecchio per camminare, o meglio per stare in piedi. In linea con noi abbiamo il professor Giorgio Guidetti, responsabile del servizio di audiovestibologia e rieducazione vestibolare all'ospedale Ramazzini di Carpi. Buongiorno, professore, bentornato. Buongiorno a tutti voi. È un po' raffreddato? L'ho beccata, eh? Ma fregato, la diagnosi perfetta. A volte ci manca proprio la terra sotto i piedi. Il mondo si mette a girare e l'orecchio evidentemente sta combinando qualcosa. Nella parte interna qualcosa succede. Che cosa? Ma quello che può succedere a un orecchio nella parte interna, cosiddetta labirinto, sono varie le cose che possono succedere. In generale, comunque, le conseguenze o di un fatto infiammatorio o di un problema di circolazione nei capillari dell'orecchio o di altri tipi di patologie può comportare una diversità di sensibilità fra, per esempio, il labirinto di destra e quello di sinistra. Quando si crea questa differenza di sensibilità è come se un soggetto avesse la ruota un po' sgonfia da un lato e si fosse un'automobile, e quindi c'è questa sensazione di sbandare, di instabilità, e nel momento acuto in cui si forma questo fenomeno è facile avere quella che la gente chiama labirintite, cioè un'improvvisa sensazione che il mondo giri tutto intorno come se fosse una centrifuga. È un'esperienza molto brutta che comporta anche una specie di mal di mare, con nausea e vomito spesso che si associa, una bruttissima esperienza. Le cause sono tantissime, come dicevamo prima. Le cause sono tantissime, ma lei ha toccato veramente un nervo scoperto, perché non sa quanti messaggi mi sono arrivati proprio relativi alla labirintite, a questa sensazione molto sgradevole, come lei descriveva, che avvertiamo quando il mondo ci gira intorno, a noi sembra di girare intorno al mondo, perché sono due sensazioni differenti che vanno comunque capite e cercate di trasferire al medico, vero professore? Sì, è molto importante evitare di confondere le cose, perché in realtà, tanto per semplificare un po', quando la gente dice vedo, ho le vertigini, realmente poi dà informazioni un po' come dire ho la febbre, ecco, non vuol dire nulla di più, non aiuta. Mentre se uno nel descrivere il proprio sintomo è un po' più preciso, aiuta il medico anche a capire. Quindi per esempio quando uno vede tutto il mondo che gira, come dicevamo, di solito è un fatto acuto a carico della parte interna del labirinto. Mentre quando uno si sente instabile, insicuro, di solito il problema è un po' più complesso e molto spesso diciamo il danno è a carico dei centri cerebrali, quindi per esempio il cervelletto e altre zone del cervello che collaborano con l'orecchio e sovraintendono la funzione dell'equilibrio nella sua complessità. Professor Guidetti, c'è una manovra che viene spesso suggerita ed eseguita sulle persone che hanno questo problema che noi diciamo di disequilibrio, vertigine, o tradotto in modo molto più semplice, la labirintite, come diciamo noi e non voi, perché ormai avete cambiato questo termine, non lo volete più ogni tanto, Sì, è giusto, un termine che è un po' specifico, anzi per essere esatti identificherebbe una percentuale minima di soggetti, perché sarebbe un'infiammazione del labirinto, un evento molto raro. Sì, il discorso delle manovre interessa una delle patologie più comuni in grado di provocare la vera sensazione di vertigine col mondo che gira. Si tratta della formazione di microcalcoli, la gente non so perché ma li chiama sassolini, comunque il concetto sono microcalcoli, che all'interno del labirinto si muovono in modo anomalo andando a fare dei falsi contatti tipicamente scatenati dai cambi di posizione. Quindi è la vertigine breve ma violentissima, scatenata da guardare in alto, da guardare in basso, nello sdraiarsi, ruotarsi nel letto, alzarsi da letto. Vertigini brevi ma molto violenti di solito sono provocate da questo tipo di situazione patologica, diciamo, ed è in genere rimediabile rapidamente con opportune manovre, mi scusi, lancerei un messaggio preciso, fatte da mani esperte. Sì, perché ho visto che si è fermato, ha preso fatte da mani esperte, quindi sì, quali sono queste mani esperte? Solo quelle dei medici? No. Sono medici che hanno fatto l'esperienza sufficiente sul pezzo, così dire, sì. Cioè hanno visto molti casi di questo genere, hanno imparato a fare correttamente, perché le manovre non sono una, sono almeno 16 o 17 diverse, a seconda della situazione specifica, della posizione del calcolo all'interno dell'orecchio, del tipo di quantità, se vuole, anche di questi calcoli, cioè sono tanti i fattori che fanno scegliere una manovra piuttosto che un'altra. Se si sbaglia la manovra, piuttosto si sceglie una manovra sbagliata, si rischia di peggiorare invece che di migliorare, o di magari fare qualcosa di estremamente momentaneo come risultato, poi in realtà provocare una facilità alle forme ricorrenti. Insomma, più passa il tempo, più ci accorgiamo che anche se è stata una grandissima scoperta quella delle manovre che permettono di liberare da questo fastidioso sintomo. Perché, mi scusi, attraverso queste manovre si riportano i sassolini al loro posto? Per essere più precisi, li si riporta in una zona dove ci sono quelle che io chiamo le cellule spazzino, cioè che hanno bisogno di qualche ora per eliminare completamente questi detriti, per scioglierli. Però vanno effettuate da persone esperte, sì, che sappiano stare, come ha detto il professor Guidetti, sul pezzo. Quindi sono otorini oppure fisioterapisti, persone che lavorano appunto in queste, anche nella riabilitazione, nel recupero? Ma generalmente sono quasi sempre otorini oppure tecnici di vestibologia, ma principalmente ci vogliono otorini specializzati adeguatamente nel trattamento delle malattie del labirinto. Quindi se vi manca la terra sotto i piedi, cercate le mani giuste, una soluzione si trova. Grazie professor Guidetti per essere stato con noi, buona giornata. Grazie anche a voi. A noi invece andiamo a Vicenza, poi a Milano e poi nella provincia di Rieti. Facciamo una batteria di telefonate dei nostri ascoltatori, 800 24 00 24 se volete parlare con noi. Mario, buongiorno da Vicenza. Buongiorno. Ho 66 anni, mio padre ha avuto problemi di udito e sì, anche mio fratello più vecchio. Ora comincio anche io ad avere qualche problemino. Sono andato presso un centro audiometrico per dove vendono gli apparecchi, sì, e hanno trovato una difficoltà sopra i 4000 Hz, consigliandomi l'apparecchio. Vorrei sapere se questi apparecchi poi possono peggiorare col tempo il suo udito. Esatto. Cioè mettere questa sorta di stampella, un po' la domanda che ci facciamo quando diventiamo presbiti, dottor Burdo, noi diciamo, ma se metto gli occhiali, non è che il nostro occhio si abitua e peggiora sempre di più la situazione? È un po' una domanda simile, mi sembra, ci ha fatto Mario, l'apparecchietto, ma poi cosa si fa? Io rispondo ai miei pazienti quando mi dicono così che noi non siamo nati per soffrire, cioè questo è un retaggio culturale di un certo tipo che nulla ha a che vedere secondo me con la realtà. Se una persona sta male deve risolvere il problema, questo è il punto. Io consiglio di non andare direttamente nei negozi dove vendono gli apparecchi acustici per ovvi motivi, perché come l'esempio che ha riportato il paziente, avere una sordità limitata a frequenze superiori a 4000 Hz è difficilmente protesizzabile. Questo non vuol dire che il paziente non abbia problemi, però con difficoltà si riesce a compensarla e quindi è sempre preferibile farsi vedere prima da un medico e farsi consigliare e poi andare in un negozio di protesi acustiche. Quindi prima la visita, perché spesso, a volte, in alcuni casi, l'apparecchio non è necessario, sì, tutto o non risolve la situazione, invece quando c'è da fare si va. Esatto, tenuto conto che oggi ci sono degli apparecchi eccezionali, funzionano benissimo, la nuova tecnologia digitale ha risolto moltissimi problemi. Costano tantissimo. Costano un occhio della testa per una serie di situazioni, sono anche apparecchi di alta tecnologia, ma innegabilmente costano molto cari. Andrea, buongiorno, ci chiama da Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Complimenti per la trasmissione, intanto che seguo spessissimo. Bravo Andrea, grazie. Una domanda per il dottor Burdo. Allora, io ho 49 anni, non soffro di ipertensione, però talvolta riscontro il famoso fenomeno dell'acufeni, che però si limita, ho riscontrato, stando attento, valutando un attimino, è limitato nei momenti di cambio del tempo, ovvero quando ci sono delle condizioni atmosferiche che variano, quindi dall'alta pressione alla bassa, quindi arrivano nuvole, piove, via dicendo. È qualcosa di riscontrato, di possibile, o è solo una coincidenza? Che però a me sembra strana, perché ripeto, si ripresenta sempre allo stesso. Si ripresenta quasi sempre, esatto, sì, in concomitanza proprio di queste variazioni climatiche. C'è chi sente qualche dolorino e allora dice cambia il tempo. Ad Andrea fischiano le orecchie. Dottor Burdo. Le meteoropatie sono delle patologie note, la sordità, tra virgolette, una patologia dell'udito come può essere un acufene, vale la pena approfondirlo, perché cambiando il tempo, attenzione, si cambia la nostra sensibilità verso il nostro corpo, questo è il punto. Per cui un buon esame dell'udito, una buona valutazione specialistica per vedere le condizioni uditive del paziente è consigliabile. Abbiamo il tempo, Carmelo, di sentire Francesca della provincia di Rieti. Sì, oggi è bravo. E poi andiamo subito a sentire che cosa succede sulle strade. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Carmelo, buongiorno, ci lascia stare insieme. Vada, Francesca. Allora, io volevo porre una domanda al dottor Burdo. Si è verificato quest'estate un fenomeno, un fastidio più che altro, di occlusione dell'orecchio. Ho fatto una visita dall'otorino, ma non ha riscontrato il tappo di cerume. Dunque l'orecchio era libero. Fatte tutte le varie misurazioni, ho supposto che si trattasse di catarro all'interno dell'orecchio. Dopo un ciclo di aerosol, La situazione è leggermente migliorata, ma il fastidio persiste. Quindi l'orecchio di Francesca rimane tappato. Orecchie tappate, state con noi, perché noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo di nuovo insieme. A tra poco. Essere e benessere. Dottor Burdo, questo senso di ovattamento di orecchio tappato, quando dietro non c'è un tappo di cerume, il catarro, che cosa può essere? Che cosa fare? Iniziale sordità. La sensazione di orecchio chiuso può essere sicuramente un segno iniziale di sordità, quindi in questo caso un esame dell'udito. L'orecchio chiuso è causato o dal tappo di cerume, o dalla tuba chiusa, quindi da un raffreddore, da qualcosa che chiude il naso, oppure da un'iniziale sordità, e scambiamo la sensazione, quella di orecchio chiuso, in realtà è una percezione ridotta. Insieme all'orecchio che ode, c'è l'orecchio che vede. Quando, per esempio, sentendo da lontano la voce di una persona amata o temuta, ne prevede l'arrivo. C'è l'orecchio che odora. Quando, per esempio, avverte un colpo di vento anticipatore di un profumo di fiori. C'è l'orecchio che gusta, come quando sente friggere, bollire, arrostire. E c'è l'orecchio che tocca, quando un rumore improvviso può far accapponare la pelle. Ci è piaciuto questo estratto che abbiamo preso dai Sensi delle Arti, sinestesie e interazioni estetiche di Lamberto Pignotti. E c'è anche l'orecchio di chi fa finta di niente e non ascolta, le classiche orecchie da mercante. Voi le avete fatte, le fate spesso, quando? In linea con noi abbiamo il professor Giampaolo Perna, psichiatra, direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto Menni ad Albese Concassana e professore dell'Università di Maastricht e di Miami. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, a tutti gli ascoltatori. Si fa tante volte finta di non sentire. Ma direi anche di sì. Lei, sicuramente. Vero. Direi che si fa finta di non sentire qualche volta in termini proprio come atto volontario, no? E talvolta invece non si ascolta realmente, perché ricordiamoci bene che un conto è qualcuno che ci manda un messaggio, altro conto è noi che lo recepiamo, non sono la stessa cosa. Talvolta la persona ci parla, noi stiamo pensando ad altro e quindi non ascoltiamo, o talvolta non vogliamo ascoltarlo. Professor Perna, e poi ci sono delle cose che noi non vogliamo sentire, non accettiamo e quindi ci irritano, ci mandano in crisi, ci fanno arrabbiare in modo particolare, ciascuno per una sensibilità diversa, ma succede proprio così, e lei che è esperto della mente, come me lo spiega? Ma lo si spiega, tutto ciò che ci induce stress in qualche maniera noi lo evitiamo, quindi pensiamo a una persona, a una compagna o un compagno che ci deve dire qualcosa che implica una discussione, un conflitto, talvolta si preferisce non sentirlo, per evitare poi di entrare in discussioni, in conflitto o altro, quindi si fa appunto orecchie da mercante. Il problema è che molto spesso questo, invece che lasciar cadere le cose, fa poi scatenare una rissa, perché il non ascoltare è sicuramente la cosa peggiore. Se noi ascoltiamo qualcuno e entriamo in conflitto, vuol dire che l'abbiamo considerato, se non l'ascoltiamo facendo orecchie da mercante vuol dire che non lo stiamo considerando, e questo ha effetti molto negativi sulle persone. Quindi salutiamoci con un messaggio per le persone che tendono a fare orecchie da mercante. Il messaggio è molto semplice, bisogna avere la capacità di chiedere alla persona che ci ha fatto la domanda se abbiamo capito bene, quindi ricapitolare la domanda e chiedere se abbiamo capito bene. Questo vuol dire che ci ha mandato il messaggio, noi l'abbiamo recepito, l'abbiamo elaborato e lo stiamo ripresentando alla persona, e permette alla persona che ci ha fatto la domanda di correggersi se non si è spiegato bene e di soprattutto di sentirsi compreso veramente. Grazie professor Perna, buona giornata. Buona giornata a voi tutti. In linea con noi abbiamo Stefano Polato, perché per tutta questa settimana cucina per noi suggerendoci delle ricette, perché noi vi stiamo invitando, non fate orecchie da mercanti, a cambiare un po' il vostro stile alimentare. L'impegno e la sfida di questa settimana in realtà sono due, quelle dei 5.000 passi e di ridurre un po' i pizzichi di sale che noi aggiungiamo alle nostre pietanze e ai nostri piatti. Ci aiuta Stefano Polato con una ricetta anche oggi. Stefano, ciao, benvenuto. Buongiorno a tutti, ciao Nicoletta. Che cosa ci hai preparato oggi? Perché poi noi andiamo a vedere la ricetta sul sito, ma stuzzicaci un po'. Sì, Allora, ci siamo già cimentati sul pollo al curry di lunedì e ieri ci siamo lanciati sul cacciucco. Bene, oggi diamo una soluzione per chi invece è più abituato ad utilizzare cibi pronti o comunque cibi veloci. E purtroppo questa categoria, è la categoria più soggetta a questo tipo di inquinamento, l'inquinamento del sale, visto considerato che il sale è nascosto sotto moltissime forme, certo. Ad esempio sotto il glutammato di sodio, molto utilizzato nella preparazione dei dadi, eccetera. Esatto. O ancora il sal nitro per la conservazione dei salumi e degli insaccati, addirittura nei gelati troviamo l'alginato di sodio, che è un utilizzato po' come addensante. Esatto. E oggi diamo una soluzione sì? Per chi invece magari durante la pausa pranzo ama consumare un'insalata. Sì. Allora io do questa dose, utilizzo 3 cucchiai di origano secco, 2 cucchiai di timo secco, 1 cucchiaino di cipolla in polvere o aglio in polvere, 1 cucchiaino di aneto, semi di sesamo tostati, andiamo a tritare il tutto e mettiamo tutto in un barattolo. Al sì. momento di consumare l'insalata basterà una semplice spolverata per sostituire il sale in una maniera sana e intelligente. La ricetta di questo mix di erbe aromatiche la trovate sulla pagina di Essere Benessere. Grazie a Stefano Polato. Grazie a voi. Questo insaporitori per insalate, ma immagino che vada bene anche per le verdure. Assolutamente. In generale. Sì. Dottor Burdo, ha sentito bene? Lei cucina? No, io non cucino, però amo la buona cucina. E quindi può darsi anche lei un po' da fare. Vada a vedere anche lei le ricette di Stefano Polato, certo. Ma intanto noi andiamo a Venezia, perché c'è Nadia. Buongiorno. Signora dottoressa, buongiorno. Io sono Nadia. Sì? E ho 67 anni. Da 4 anni circa. Torno però sull'argomento dell'udito. Sì, ma noi chiacchieriamo, sa, siamo benissimo. Un po' in cucina, cerchiamo di stare bene. Vada certo, con l'udito. Certo, ed è veramente una cosa utilissima. Allora, io ho fatto esami audiometrici, visita dall'otorino, ho fatto perfino dei palloncini per vedere se si aprivano le orecchie. Sì, insomma, le ha fatte di tutto, Nadia. Sì, ad esempio, questi palloncini, secondo me, non sono da usare perché mi hanno perforato il timpano. Dottor Burdo, cosa sono questi palloncini certo. dentro le orecchie? Mi sembra una tortura. Telefonata splendida. Allora, brava. I palloncini sono proprio dei palloncini che si mettono sulla narice, si soffia, si forza l'apertura della tuba. Allora, la signora molto probabilmente ha questa sensazione di orecchio chiuso sì. che non è legato a una tuba chiusa, perché la tuba molto probabilmente è aperta, tant'è sì. che soffiando nel palloncino ha spinto talmente da provocare una perforazione del timpano. La signora molto probabilmente è un po' dura d'orecchio. Nadia, il palloncino per lei ha avuto questo effetto, gradevole effetto collaterale, conseguenza direi, ma adesso come va? Tale quale la situazione di 4 anni fa, quando perfetto. All'improvviso si sono chiuse tutte e due le orecchie, ho fatto gli aerosol, niente. Tutto quello che poteva essere. Sento il dottor Burdo che scalpita perché dice no, perché l'orecchio tappato vuol dire che l'udito sta calando, è calato? Può essere anche calato improvvisamente. Calato improvvisamente e può capitare a tutte le età? Può capitare a tutta l'età. E non c'è nulla da fare? No, non è che non, assolutamente no, c'è sempre qualcosa da fare. Cioè, così mi piace. Ad esempio la sordità improvvisa è una delle urgenze che portano al ricovero, perché una terapia adeguata effettuata in tempi brevi rispetto all'insorgenza molto spesso risolve il problema. Certo è che scambiare un orecchio chiuso da tuba piuttosto che un orecchio chiuso perché si è diventati sordi, ha capito, in genere sicuramente delle confusioni con le conseguenze che abbiamo appena sentito. Sì, ma non lo facciamo noi questo errore, lo fate voi, Capita. Ed è grave però, dottor Burdo. Allora, dottor Burdo, prima di salutarci, Damiano mi scrive, importante, poi scrive... in stampatello, posso sapere se per pulire l'orecchio si può usare ogni tanto dell'acqua ossigenata? Rispondiamo a Damiano. Sì, Tant'è che io consiglio alle mamme dei miei bambini sordi, i quali hanno più serume degli altri perché hanno le chiocioline delle protesi che ostacolano la fuoriuscita, sì, della, di usare una perrettina, quella che si usa per i coricieri dei bambini, con mezza acqua normale, un po' calda, nel senso temperatura vaporea, e mezza acqua ossigenata, perché in questo modo il serume si scioglie, poi si sciacqua col doccino e in questo modo teniamo le orecchie pulite. Umberto invece ci scrive, perché così do voce anche agli SMS, vorrei sapere come proteggere l'orecchio quando suono in sala prove con il gruppo musicale ad alto volume. Lì bisogna mettere non tanto dei tappi che in realtà non sono molto efficaci, perché riducono l'intensità di 20 decibel, non di più, conviene usare delle cuffie protettive. A proposito di tappi, rapidamente, usare i tappi di notte può provocare alla lunga dei problemi? Può provocare perché? Innanzitutto i tappi di cerume, perché ostacola il normale deflusso del cerume verso l'esterno. E poi in questo modo si possono creare anche delle infezioni, perché il cerume va intorno a questo tappo, si creano dei germi, quindi delle infezioni dell'otite esterna. Quindi niente tappi contro il rumore, e quindi Sex and the City aveva sbagliato a procurarsi i tappi. Buona giornata, dottor Burdo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Carmelo Lauricella, lo ringraziamo, in regia la parte tecnica, come sempre straordinaria, Laura Vanossi in redazione. Amiche, io ritorno domani anche per gli amici di Essere Benessere. Radio 24. La passione si sente.